il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il miele è sempre stato considerato il parente povero dei grandi prodotti dell'agricoltura italiana e anche veneta. Lo facevano da sempre i nostri contadini, lo fanno molte persone che si sono appassionate a questo prodotto e al mondo delle api. In realtà però, soprattutto in alcune zone e in particolar modo nel nostro Montello, è uno dei prodotti principali, quasi da rivaleggiare con il prosecco. Ne parliamo oggi con Francesco Bortot, apicoltore di Montebelluna. Benvenuto Francesco. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, allora le chiederei subito perché nella zona di Montebelluna, anzi del Montello, c'è questa particolare produzione di miele, è forse la zona principale del Veneto, è una delle più importanti d'Italia per questa produzione. Beh, non è proprio la più importante d'Italia e del Veneto, è una zona vocata. È una zona nella quale c'è un'enorme estensione di bosco di acacia che è favorevole all'apicoltura, favorevole alla produzione di miele di acacia, che negli ultimi anni ha conquistato il mercato per le sue caratteristiche organolettiche di delicatezza e profumo, fondamentalmente questo. Le aziende sul Montello, le aziende apistiche sul Montello non sono molte, sono 4 o 5, interessanti, però attorno a questo bosco, attorno alla fioritura dell'acacia che avviene verso maggio, gravitano parecchie migliaia di alveari che arrivano da tutto il Veneto, Triveneto, dall'Emilia Romagna, dal Friuli, molte dal Trentino Alto Adige. Quindi l'importanza di questa zona è la fioritura delle acacie e il fatto che ci sia questo migrare di queste arnie. Certo. Questo è un aspetto anche che forse non si conosce, questo dover portare le arnie a seguire anche le varie fioriture per avere diversi tipi di miele. Sì, è una parte fondamentale dell'apicoltura, il nomadismo apistico, lo spostamento degli alveari sulle varie fioriture. È una condizione fondamentale per tenere in piedi un'azienda apistica. Ormai non ci sono più, se non in rare zone d'Italia, le zone dove gli alveari possono essere stanziali, possono stare fermi tutto l'anno. Soprattutto in Veneto, per la sua conformazione, per l'agricoltura che lo caratterizza e per la presenza di zone naturali come possono essere le prealpi e le Alpi, gli alveari vengono appunto spostati dalla pianura alle colline come il Montello alla montagna per la produzione di vari mieli, e da qui anche la particolarità di mieli uniflorali, cioè mieli di una certa essenza vegetale come la caccia, il castagno, i vari tipi di mieli che si possono trovare in giro. Ecco, nell'arco dell'anno più o meno si può avere un'idea, perché questo significa che la produzione non è concentrata solo nella fioritura primaverile o il miele di castagno, forse in autunno, significa che c'è durante tutto il corso dell'anno anche un continuo spostare queste api e produrre mieli. In effetti comunque il periodo di produzione è molto limitato, si può in Veneto definire una produzione dalla fine di aprile alla metà, fine di luglio. Questi sono i mesi in cui si produce il miele, perché coincidono con le varie fioriture e con le varie possibilità nettarifere del territorio. Tutti gli altri mesi sono impegnati nell'allevamento, nello sviluppo e nella cura degli alveari, che non è poco. Il primo miele che si fa nell'anno qual è? Il primo miele, in linea generale, è il miele di Tarassaco. Misto a ciliegio, che arriva con la fioritura dei prati che si colorano di giallo verso la metà di aprile, su cui le api trovano un buon nettare particolare, un miele caratteristico, e che dà anche del polline fortemente adatto allo sviluppo delle colonie. Questo è il primo miele, segue la caccia, che è il cavallo di battaglia. Poi ci sono le varie sfaccettature di castagno, di millefiori, di melata di abete, di miele di barena, di miele di tiglio, a seconda di dove gli alveari sono portati a bottinare. Senta, come si spiegherai questo interesse verso l'apicoltura che è venuto crescendo sia da parte delle aziende ma anche di molte persone che lo fanno come hobby? Ma l'apicoltura ha trovato anche nell'evoluzione, a mio avviso, dei gusti e delle attenzioni dei consumatori, un terreno fertile. Ape e miele sono sinonimo di naturalità, di biologico, di... Sì, di rispetto della natura anche. Di biodiversità, di tutela dell'ambiente, è questo che porta le persone a essere sensibili anche ai prodotti dell'alveare. Unito al fatto che l'apicoltura non è un'azienda agricola standard, un'azienda agricola normale, è un'azienda agricola con la quale si possono fare, diciamo, grandi cose, tra virgolette, con un investimento limitato. Non ha bisogno di enormi infrastrutture come le aziende agricole che conosciamo, bensì ha bisogno di tanta passione, tanta preparazione, costanza e direi esperienza, e il gioco può essere fatto, insomma. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di miele e di api con Francesco Bortotte dell'omonima apicoltura di Montebelluna. Stavamo parlando di questo interesse verso l'apicoltura e del fatto che serve anche preparazione e molta passione per portare avanti questo lavoro. Chi volesse diventare apicoltore, cosa dovrebbe fare? Chi volesse diventare apicoltore, innanzitutto deve armarsi di un'enorme voglia di aggiornarsi. l'apicoltura non è una un settore che si crea da sé, ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di studio, ha bisogno di tanta esperienza. Per cui il consiglio che posso dare io dal mio piccolo è quello di seguire un'azienda già strutturata, capirne quali sono i meccanismi e parimenti aggiornarsi, tenersi aggiornati e studiare come funziona l'allevamento dell'ape e come funziona l'ape stessa. Per cui studio e lavoro fanno parte sono due ingredienti fondamentali per la riuscita in questo settore. Senta, quest'anno la stagione del miele non sta andando molto bene perché le piogge hanno reso parecchie difficoltà sia le fioriture sia le api stesse. Sì. Com'è la situazione? Ma la situazione al momento è in uno stallo preoccupante, nel senso che di miele ne è venuto poco. Nonostante ci fossero stati i presupposti favorevoli, causa il maltempo che imperversa ormai da settimane praticamente sopra le fioriture, insomma. Le api hanno questi problemi perché sono impossibilitate a bottinare, la temperatura molto bassa impedisce alle piante di secerne nei fiori il nettare che cercano le api, per cui al momento ci sono queste difficoltà, insomma, nel nostro Veneto, fatta eccezione per qualche areale in particolare, insomma. Si diceva che uno dei grossi nemici delle api erano i fitofarmaci che venivano spruzzati nei campi. C'è ancora questo problema? Sappiamo che i contadini sono molto più attenti, oggi se ne usano molti di meno, però c'è ancora questo problema o ci sono delle soluzioni? Ma le soluzioni ci sono sempre a qualsiasi problema, dal mio punto di vista basta parlarne, basta rendersi conto che la collaborazione tra agricoltura e apicoltura è fondamentale. Noi abbiamo bisogno dell'agricoltura, non abbiamo solo bisogno delle zone incontaminate, noi andiamo a fare il miele dove c'è l'agricoltura, il miele di America, il miele di coriandolo, il miele delle sono mieli particolari e apprezzati e vengono dall'agricoltura. Il problema dei pesticidi è un problema molto grosso che tocca il nostro settore, perché ci impedisce di far sviluppare le api, praticamente le api non trovano un ambiente consono per il loro sviluppo, insomma. Senta, il prezzo del miele immagino che quest'anno aumenterà, ma in una stagione normale qual è il prezzo giusto per il miele e perché cambiano a seconda delle diverse tipologie di fiori? Ma innanzitutto comincio dalla seconda domanda, il prezzo del miele cambia a seconda della tipologia e a seconda della richiesta di mercato. Il miele di acacia non era molto conosciuto all'infuori delle zone evocate, che possono essere state quelle del nord Italia, però ha ritrovato, grazie alla distribuzione, alla grande distribuzione, alle catene di distribuzione dei prodotti alimentari, ha trovato risposta favorevole dal consumatore. Altri mieli perché? Perché è liquido, perché è trasparente, perché è chiaro, perché è profumato e perché non dà in linea generale gusti particolari alle bevande, alle pietanze in cui è aggiunto, cosa che può essere diversa per altri tipi di miele, magari più aromatici, più particolari, che cambiano magari il gusto del caffè o del tè o della tisana. Questo per quanto riguarda la tipologia di miele. I prezzi di mercato hanno un trend positivo per il settore, nel senso che sono da anni in continuo aumento. Non è una bella cosa per il consumatore, immagino, però per le aziende è una cosa fondamentale. Questo perché? Perché il miele a livello mondiale, la produzione del miele è in contrazione incredibile, insomma le api stanno decisamente male, tutto qua. E questo nonostante la concorrenza di miele che arriva magari dall'estero a basso prezzo, sappiamo che questo è uno dei problemi tipici delle nostre produzioni italiane. Sì, l'Italia importa quasi la metà del proprio consumo di miele estero, per cui del nostro miele c'è molto spazio, non è un prodotto né contingentato né regolato da particolari normative e questo è anche un grosso vantaggio nel nostro settore, più ne produciamo e meglio è. Bene, la ringrazio, oggi ne sappiamo qualcosa di più di miele e speriamo che la situazione quest'anno, la produzione almeno nell'ultimo mese che rimane possa migliorare. Io sono fiducioso, vi saluto tutti, grazie. Grazie. E restiamo in tema concludendo la trasmissione con un paio di notizie. Italian Food and Wine, un nuovo percorso formativo avviato dall'Università di Padova, istituzionalizzato come laurea magistrale e tenuto solo in lingua inglese. Il suo scopo è la conoscenza, gestione, valorizzazione e tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. Il corso è ovviamente rivolto a studenti sia italiani che stranieri interessati alle tematiche di una migliore e più efficace valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, incluso il vino, sui mercati internazionali. Dura 2 anni, le materie di studio vanno dalla biodiversità delle piante, degli animali, la microbiologia del cibo, alla storia, l'antropologia, alla sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Il requisito di accesso per questo corso sono una laurea triennale e una conoscenza della lingua inglese di livello B2 minima. Informazioni sul sito internet dell'Università di Padova nella sezione Corsi di laurea magistrale. Infine, la Giunta regionale del Veneto ha approvato un bando per 1,6 milioni di euro destinato alle nuove imprese che operano nel settore del turismo, in particolare della bicicletta e dell'enogastronomia. Potranno beneficiare del finanziamento le nuove micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, localizzate nei comuni che hanno aderito all'organizzazione di gestione della destinazione Dolomiti e dei comuni attraversati dai principali itinerari cicloturistici e dai percorsi riconosciuti nell'ambito della rete escursionistica veneta. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.pluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.